cos'è quest'estate? Di Elisabetta Fiorito. Erdogan, intervenuto all'agenzia di Tartassa, ha ricordato che Putin è stato il primo a chiamarlo dopo il tentativo di colpo di Stato, che il leader russo si è schierato apertamente e senza riserve con la repressione dei giorni successivi, necessaria, ha detto lo stesso Putin, a ristabilire l'ordine costituzionale e la stabilità del paese. Così, per la sua missione, il presidente turco adotta un termine che dovrebbe spaventare l'Occidente, definendola storica, storica come i primi passi di un cambio di fronte per un paese di confine che l'Europa e gli Stati Uniti dopo la Seconda Guerra Mondiale hanno cercato in ogni modo di inserire nel loro sistema di contenimento all'epoca antisovietico e che da quasi 70 anni ritengono un membro fondamentale dell'Alleanza Atlantica. Il sultano e lo zar, Erdogan e Vladimir Putin, questo incontro che scuote il Medio Oriente ma non solo, anche l'Unione Europea, questo è il tema dell'approfondimento di oggi, ma non solo, parleremo di Siria, di Libia e soprattutto di nuovi equilibri. Abbiamo con noi Alberto Negri, giornalista del Sole 24 Ore, buongiorno Alberto. Buongiorno a tutti voi. In un lungo articolo tu oggi sul nostro giornale Il Sole 24 Ore spieghi che questo incontro in realtà ha un vincitore, che è Vladimir Putin. Perché? È un vincitore sul campo di battaglia, perché è riuscito insieme all'Iran e agli Hezbollah libanesi a tenere al potere Bashar Assad dopo 5 anni di un conflitto sanguinosissimo che ha provocato 300.000 morti e milioni di profughi. E invece Erdogan ha perso, Erdogan che per 5 anni ha tentato, anche attraverso l'afflusso dei jihadisti dalle sue frontiere, di sbalzare dal potere l'autocrate di Damasco. Quindi tu dici ha vinto il fronte sciita, poi, perché Putin appoggia Assad, ma in questa guerra c'è anche un fronte sciita sunnita e ha perso Erdogan, che rappresentava il fronte sunnita. Ma non c'è dubbio, il fronte sciita è costituito dall'Iran, dal governo sciita di Baghdad, non dimentichiamolo, da Bashar Assad stesso e dagli Hezbollah libanesi, contro un fronte sunnita che è stato sostenuto dalla Turchia e finanziariamente dal Qatar e dall'Arabia Saudita, facendo leva sia sull'opposizione ad Assad sia sui gruppi jihadisti, manovrando per esempio al-Nusra, affiliato ad Al-Qaeda, ma anche in certi momenti lo stesso ISIS. Non dimentichiamoci che Erdogan è stato l'unico capo di governo a trattare con l'ISIS a Mosul il rilascio del console e di altri 50 diplomatici turchi nel 2014, ad facilitare anche quel passaggio di uomini, mezzi e petrolio alle sue frontiere che ha tenuto in piedi l'ISIS. Insomma, la guerra all'ISIS della Turchia, che pur fa parte della coalizione internazionale, è sempre stata assai ambigua. Abbiamo però un significato, cioè intanto Erdogan che va a Mosca, quindi c'è questa, se la politica e la diplomazia si fanno anche con i gesti. L'altra cosa che mi sembra sia abbastanza rilevante è il fatto che Erdogan, andando da Putin, però ha messo un po' a margine quello che è l'Unione Europea. Beh, e soprattutto ha messo a margine la NATO, perché insomma Putin non si è fatto sfuggire, dopo il colpo di Stato, la ghiotta occasione di congratularsi con Putin, con Erdogan, di essere rimasto al potere e di aver sconfitto i golpisti. La Turchia è un paese corteggiato da Mosca da tempo, perché ha 24 basi della NATO, armi nucleari comprese, e ci sono i missili puntati sia contro Mosca sia contro Teheran. È chiaro che sia Mosca che Teheran, sia l'Iran che la Russia, vedono certamente nella crisi dei rapporti tra la Turchia e gli Stati Uniti, tra la Turchia e l'Europa, un'occasione imperdibile per inserire, come dire, una leva verso l'Occidente e negoziare. Giuseppe Agliastro, giornalista a Mosca per l'ANSA, è da 2 anni e mezzo che sei a Mosca. Sul fronte russo, questa visita cosa ha significato? Buongiorno. Sul fronte russo sicuramente Putin sta sfruttando la visita di Erdogan dal punto di vista della propaganda interna, vendendola ai cittadini russi come una vittoria diplomatica, cosa che in effetti da un certo punto di vista è per Putin, visto che la situazione in Siria è stata radicalmente cambiata dall'intervento e dai raid russi in Siria, che hanno appoggiato e hanno consentito alle truppe di Assad di recuperare terreno. Dal punto di vista della Russia, sicuramente questa visita con gli accordi che sono stati annunciati è un passo avanti dal punto di vista sia politico sia economico, e lo è in parte anche sicuramente per la Turchia. Perché? Perché ieri gli accordi che sono stati annunciati da Erdogan e da Putin prevedono innanzitutto l'eliminazione della graduale però delle sanzioni che la Russia ha imposto l'anno scorso alla Turchia. Dopo l'episodio ricordiamo che c'era stato l'aereo abbattuto, no? E era morto il pilota russo, giusto? Esattamente, nel novembre del 2015, quando gli F-16 turchi abbatterono un jet militare russo al confine tra Turchia e Siria. E fu questo episodio a far scoppiare, diciamo, una grande crisi diplomatica tra Russia e Turchia, a cui la Russia rispose appunto con queste sanzioni che bloccano ancora adesso le importazioni da parte della Russia di prodotti alimentari turchi, e la Turchia vende in Russia soprattutto frutta e verdura, ed è una voce importante dell'economia turca. Volendo citare dei numeri, le esportazioni turche in Russia nel primo semestre di quest'anno sono calate del 60,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, quindi una perdita notevole. E poi, visto che l'economia turca si basa anche molto sul turismo, ieri è stata annunciata la ripresa, che tra l'altro era già stata ventilata in passato, la ripresa dei voli charter dalla Russia alla Turchia, quindi il ritorno in massa dei turisti, dei turisti russi. Quindi questo è molto importante, perché sappiamo che il turismo in Turchia, dopo gli ultimi attentati, poi ha subito, come in tutti i paesi medio orientali, un tracollo. Quindi questa ripresa dei voli è per Erdogan sicuramente un appeal. Certamente, anche perché l'afflusso di turisti russi in Turchia, sempre nel primo semestre di quest'anno, è sceso dell'87% rispetto al periodo dell'anno scorso, quindi anche qui grosse perdite economiche. Eppure si è parlato anche di accordi sul fronte energetico. Il Turkish Stream. Il rilancio del Turkish Stream, anche se il rilancio di cui hanno parlato ieri russi e turchi riguarda il tratto russo-turco, quindi il primo tratto che porterà il gas russo direttamente in Turchia e poi in teoria potrebbe anche arrivare in Europa. Naturalmente in questo caso ci vorrà anche il benestare dell'Unione Europea, quindi si dovranno trovare degli accordi per quanto riguarda il terzo pacchetto energetico. Scusa Giuseppe. Giuseppe, questo famoso gasdotto, poi ne parliamo anche con Alberto, a questo punto che cosa farà? Andrà in Crimea per passare? Ci spieghi un attimo qual è la geografia, perché ovviamente evita l'Ucraina e quindi evita tutto il fronte del nord e passa per il Mediterraneo, ma dalla Russia alla Turchia come ci arriva? Quali sono le regioni della Russia che passa? Quattro, dovrebbe collegare, se non sbaglio, Krasnodar, quindi la Russia meridionale, con l'Europa, però il Mar Nero, quindi semplicemente attraversando il Mar Nero, quindi bypassando completamente l'Ucraina, cosa che ovviamente l'Unione Europea diciamo non vede di buon occhio, perché bypassando l'Ucraina farebbe perdere all'economia ucraina circa 2 miliardi di dollari l'anno, che è quanto guadagna appunto Kiev dal trasporto del gas russo verso l'Europa. E quindi insomma, insomma ci sono vari fronti aperti. E altre cose ci stavi dicendo? Altri accordi commerciali? Sì, l'altro accordo è il rilancio della costruzione della centrale nucleare di Akkuyu, che dovrebbe essere la prima centrale nucleare turca. E l'accordo è stato congelato dalla crisi diplomatica tra Mosca e Ankara. E a questa costruzione partecipa l'agenzia nucleare russa, la Rosatom. per cui insomma c'è anche un rilancio da questo punto di vista. Un avvicinamento. No, ecco, insomma, Putin ha fatto un bel bottino con questa, con questo primo accordo, questo primo incontro con Erdogan. Questa è la sensazione che si ha a Mosca? Sì, sicuramente. Anche se quello che resta ancora, diciamo, un mistero, non è ancora ben chiaro, anche perché ieri i leader di Russia e Turchia, compresi i ministri degli esteri e i capi dei servizi segreti, hanno parlato in un incontro a parte. Quello che resta un mistero è appunto il compromesso che starebbero cercando sulla Siria, perché ieri Putin si è limitato a parlare di una posizione comune nella lotta al terrorismo, senza meglio specificare. E poi sappiamo che nei mesi scorsi ci sono stati vari, diciamo, chiamiamoli screzi tra Erdogan e Putin, accuse reciproche, Erdogan ha accusato la Russia di armare il PKK, e Putin ha accusato invece Erdogan di armare anche i terroristi siriani, nonché di comprare il petrolio dell'ISIS. Quindi quale compromesso possono trovare Turchia e Russia, che sono su due fronti opposti in Siria, perché la Russia appoggia Assad, la Turchia ovviamente è contro Assad, quale compromesso possono trovare? Secondo alcuni analisti, naturalmente sono ipotesi, Erdogan potrebbe aver chiesto a Putin di ridurre il sostegno ai curdi, che la Turchia considera nemici, e in cambio la Turchia potrebbe ridurre il sostegno ai ribelli, cosa che potrebbe essere per la Russia molto importante in questo momento del conflitto, visto che c'è Aleppo purtroppo in mezzo c'è Aleppo sotto assedio, infatti. Quindi Alberto Negri è proprio il nostro editorialista e analista del Sole 24 Ore. Insomma, l'accordo c'è per tutto, anche per il Turkish Stream, questo è sembrato, però per la Siria ancora non c'è. Un attimo prima che tu mi risponda, 349-238-6666, il numero per i vostri sms. Alberto, è così? La Siria è ancora il question mark, il punto interrogativo di questo accordo? Ma la Siria è la questione fondamentale della politica internazionale degli ultimi 5 anni. Questa è stata una rivolta, iniziata come una rivolta contro il regime di Damasco, ma è diventata immediatamente una guerra per procura, dove sono entrati progressivamente non solo tutti gli eserciti della regione, ma anche le potenze internazionali. Non dimentichiamoci che c'è una coalizione internazionale che a partire dai Cirlik bombarda l'ISIS e poi è presente sul terreno con le truppe speciali americane, britanniche, francesi, ma anche quelle tedesche, e gli italiani che addestrano l'esercito iracheno sul fronte di Baghdad. Bene, questa guerra ha visto su due fronti opposti, schierati opposti, Erdogan e Putin. Cioè, questa è stata una battaglia vera e propria, lo vedete anche adesso con l'assedio di Aleppo. Come può uscire Erdogan? Erdogan si è cacciato in un vicolo cieco, per 5 anni ha detto che Bashar doveva andarsene dal potere, ha messo dentro in campo tutte le sue forze in qualche modo per farlo, più o meno direttamente, e adesso Putin in qualche modo gli tende la mano per vedere se riesce a trovare un compromesso per farlo uscire da questo vicolo cieco. E quale potrebbe essere questo compromesso? Dipende dal pericolo maggiore che ha di fronte la Turchia. Erdogan in qualche modo voleva diventare la potenza più influente della regione, estendendola sull'Iraq, sulla Siria, in particolare sulle città di Mosul e di Aleppo perse dall'impero ottomano dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Si ritrova invece con l'incubo strategico di vedere la possibilità di formarsi una sorta di embrione di Stato curdo ai suoi confini che può saldarsi con il Kurdistan turco. Di fronte a questo incubo strategico che mette praticamente in pericolo la stessa integrità delle frontiere turche, adesso si rivolge a Putin. E Putin cosa può fare? Può concedere, questa è un'ipotesi certamente, una zona cuscinetto alla Turchia per rompere in qualche modo il fronte curdo dentro la Siria, e dall'altra parte Erdogan deve trattenere i suoi jihadisti e le fazioni che lui sostiene, che mettono in pericolo le basi russe di Latakia e di Tartus. Insomma, uno scenario molto importante, molto interessante, ne parliamo subito dopo la pubblicità. Ma cos'è quest'estate? Torniamo a parlare quindi dell'incontro tra lo zar e il sultano, ma soprattutto di Siria, perché questo è il vero vulnus della politica internazionale, il vero fallimento, come ci stava spiegando Alberto Negri. Come se ne esce? Qual è l'accordo poi sotto banco su Assad? Perché questo è il problema, mi sembra, di questo incontro tra Putin e Erdogan. Ma sotto banco in realtà non c'è nessun accordo. Ecco, questo è il problema. Questo è il problema, nel senso che Erdogan è andato a Mosca facendo una prova di realpolitik dopo 5 anni di calcoli sbagliati. Lui ha perso la battaglia sul campo. Quindi, nonostante ufficialmente la Turchia continui ad affermare che Assad se ne deve andare, in realtà Erdogan accetterà il dato di fatto che Assad resta al potere, quindi deve trattare con Mosca, quindi deve trattare anche con l'Iran, che è l'altra potenza dominante della regione in questo momento, no? Questo ha spinto poi nelle settimane scorse, ancora prima del colpo di Stato fallito del 15 luglio, Erdogan a riallacciare rapporti sia con Mosca sia con Israele. Il compromesso in realtà sarà anche determinato da quello che accadrà, come dicevi tu prima, su questo sanguinosissimo campo di battaglia. È in corso l'assedio di Aleppo è decisivo. Divisa in due, no? Quanto abbiamo capito, Aleppo è divisa in due tra le forze filogovernative e le forze dei ribelli, che però non sono quelle dell'ISIS, perché poi i fronti sono tanti, e quindi ci sono i ribelli e c'è il fronte governativo. Si chiede un corridoio umanitario, però in realtà si teme che questo corridoio umanitario possa diventare un bagno di sangue, a quanto capito. Sì, intendiamoci bene, i ribelli che combattono ad Aleppo in gran parte sono jihadisti di Al-Nusra, che è una formazione affiliata ad Al-Qaeda, che ha appena cambiato nome e che i turchi, i sauditi e anche gli americani vorrebbero riciclare come legittima opposizione, è il fronte dei jihadisti sostenuti dall'Arabia Saudita. Queste due organizzazioni si sono come dire coordinate, hanno lanciato questa controffensiva per rompere l'assedio di Aleppo, ma dall'altra parte sia i russi che gli iraniani ovviamente vorrebbero in qualche modo sconfiggere proprio questo fronte jihadista. In qualche modo sono questa la posta in gioco nell'assedio di Aleppo, e poi successivamente la divisione della Siria in sfere di influenza. Gli Stati Uniti avevano già fatto una proposta alla Russia e all'Iran, cioè di lasciare ad Assad il centro-sud del paese e di lasciare sotto influenza americana e turca il nord. Beh, questo compromesso non è stato ancora accettato, perché dopo 5 anni di battaglia, chiaramente chi ha fatto la guerra vuole vincerla tutta, non soltanto un pezzo. Diamo intanto il benvenuto a Maurizio Molinari, direttore. Ah no, tra poco sarà con noi. Diamo il benvenuto a Gigi Donelli, che è il nostro caporedattore, esperto di esteri, e soprattutto, Gigi, tu ti occupi sempre dell'Unione Europea. Questo incontro tra Putin e Erdogan ha messo all'angolo l'Unione Europea? Buongiorno Elisabetta, innanzitutto, ma messa all'angolo, diciamo che l'Unione Europea è da tempo che, anzi diciamo da sempre che fatica a definire una posizione politica estera. Sicuramente la posizione dell'Unione Europea appare fragile laddove ogni volta che vediamo invece diciamo dei leader con un controllo molto alto del proprio paese, fino a prova contraria naturalmente, assumere delle posizioni, nel senso che i meccanismi propri dell'Unione Europea sono quelli che conosciamo, sono quelli di una continua mediazione interna, e che naturalmente provoca una fragilità complessiva della posizione. Messa all'angolo in particolare, l'Unione Europea è sempre stato quel gigante diciamo economico con una grandissima fragilità politica, per cui questo quadro d'insieme non cambia in maniera particolare da oggi. Quindi tu dici che a un certo punto è proprio la Costituzione proprio dell'Unione Europea con la Mogherini, che comunque non è, non è considerata sia all'interno però dell'Unione Europea, sembra, e sia all'esterno. Questo è anche il problema, c'è anche una fragilità di questo ruolo che ha assunto la Mogherini. Ma questo è un po' tutto il discorso dell'Unione Europea, voglio dire, le divisioni interne, gli interessi dei paesi, 28 o 27 che siano nel ragionamento Brexit, sono molto diversi, i rapporti che ciascuno di questi paesi ha con la Russia e la Turchia, che oggi diciamo consideriamo in particolare in questa nostra riflessione, sono molto diversi e quindi le implicazioni non possono che essere tali. Basta pensare alla questione delle sanzioni appunto europee contro sanzioni russe e anche al ruolo particolare dell'Italia svolto in questa fase, per vedere quanto storicamente e obiettivamente le posizioni siano molto diverse. L'Unione Europea non è che la sintesi di queste differenze, quindi sì, secondo me non c'è in questo momento un passaggio significativo, il rischio è che sia un lungo declino di una posizione appunto di politica e non solo di politica estera. Quindi insomma anche la Merkel ha dovuto subire questo incontro tra Putin e Erdogan, Gigi, questo abbiamo capito. Ma diciamo che nel momento in cui, cioè, è un discorso molto lungo, in particolare per quanto riguarda la posizione russa, cioè i russi hanno sempre affermato ormai da una decina d'anni di essere diciamo delusi dalla loro prospettiva, dalle posizioni occidentali, americane prima, europee, cioè il montante anti-americanismo che poi si fonde in una sorta di crescente scetticismo nei confronti dell'Occidente parte da lontano, ed è chiaro che in questo contesto rimangono importanti dei rapporti bilaterali. La Germania sicuramente rimane, non dimentichiamolo, nella top 3 degli scambi commerciali con la Russia, per cui è estremamente importante e di sicuro questo è un peso che nessuno le nega. E il discorso però è che non viene riconosciuto una politica estera o commerciale europea, esistono una serie di paesi con i quali appunto Mosca, evidentemente anche Ankara, devono fare i conti. Le Nazioni Unite chiedono una tregua umanitaria ad Aleppo, in Siria, dove 2 milioni di persone si trovano senza acqua né luce dopo i bombardamenti della scorsa settimana. Se l'elettricità e la rete idrica non saranno immediatamente ripristinate, si legge in una nota, le conseguenze saranno disastrose per milioni di civili. L'acqua dei pozzi e delle cisterne non è nemmeno lontanamente sufficiente per rispondere alle esigenze della popolazione. Nelle 48 ore di tregua le Nazioni Unite vorrebbero poter ricostruire scorte di cibo e distribuire medicinali. Diamo il benvenuto al direttore della stampa Maurizio Molinari e gli chiediamo subito come se ne esce, perché è 5 anni che Aleppo sta sotto i bombardamenti e poi ci sono 2 milioni senza acqua, senza luce, senza viveri. Sì, buongiorno. Aleppo è teatro di una battaglia che in questo momento è il conflitto militare più importante all'interno della guerra civile siriana. Su entrambi i fronti le posizioni sono molto agguerrite e le mosse militari sono molto aggressive. La città è divisa fra sostenitori e oppositori al regime di Assad, con gli oppositori che sono gruppi di guerriglie islamiche che hanno ottenuto nell'ultima settimana importanti risultati, riuscendo ad aprirsi un corridoio fra le zone interne e esterne alla città che loro controllano. I russi stanno bombardando con i loro aerei questo corridoio con ordigni incendiari, secondo le testimonianze. Ciò che colpisce è come su entrambi i fronti in realtà gli alleati più importanti siano Erdogan e Putin, ovvero Putin è l'alleato più importante di Assad e Erdogan è l'alleato più importante dei ribelli. Da qui l'interrogativo se il patto di San Pietroburgo potrà avere delle conseguenze anche in Siria e particolarmente ad Aleppo. Senti Maurizio, è uscito poi oggi è uscita un'indiscrezione che addirittura in Libia ci sono i soldati italiani che stanno aiutando i soldati libici nella battaglia contro l'ISIS e stanno proprio sul campo a sminare il territorio. Questo ancora non è confermato da fonti italiane, però se dovesse essere così la battaglia si sposta anche a Sirte e soprattutto coinvolge sempre di più la NATO, le basi di Sigonella, l'Italia e in questo caso che ruolo avrà la Turchia, che comunque è il secondo esercito della NATO? Nella giornata di ieri sono state rese note per la prima volta le foto che testimoniano la presenza di truppe speciali americane e russe, americane e britanniche, rispettivamente in Libia e in Siria. Fino a questo momento queste foto non erano mai state divulgate. Il fatto che sia avvenuto testimonia che i paesi occidentali stiano alzando il profilo della loro presenza militare sui territori dove si combatte contro l'ISIS, la Siria e la Libia. L'interrogativo è se fra questi paesi occidentali vi sia anche il nostro, l'Italia. Non essendoci conferme non ne possiamo parlare, di fatto però sappiamo che l'aviazione e la marina italiane sono impegnate davanti alle coste della Libia in operazioni della coalizione contro lo Stato Islamico sulla base delle risoluzioni che sono state approvate dalle Nazioni Unite. L'interrogativo sulla Turchia è legittimo, in quanto la Turchia ha avuto un atteggiamento ondivago in Libia, alternando il sostegno alla forza di Sarraj e a quelle di Haftar. Da qui l'interrogativo se un Erdogan più determinato potrà avere anche un impatto su quanto sta avvenendo in Libia. Gigi Donelli, abbiamo sentito questa analisi del direttore della stampa Maurizio Molinari e abbiamo sentito sempre maggiore il coinvolgimento dell'Italia. Che cosa si teme? Si teme che poi questa destabilizzazione oramai certa del Medio Oriente da tanti anni possa però, e se della Libia in particolare, possa portare ancora di più un'onda di migranti. Ecco, come si pone in questo caso l'Unione Europea? Perché anche qui ci sono molte divisioni. Certo, anche qui ci sono molte divisioni, le abbiamo viste nel tempo. Prima citavamo l'atteggiamento diciamo diviso sul fronte delle sanzioni alla Russia, su un aspetto specifico, quindi una politica internazionale. Gli effetti di nuovo di meccanismi di costruzione dell'Unione Europea, evidentemente anche la crisi che sta attraversando in questi anni, di cui la Brexit è solamente un aspetto, non fa che sottolineare quelli che sono gli interessi. Cioè, in questa fase mi sembra che complessivamente tutti, cioè noi torniamo molto a parlare di paesi, di zone di influenza, appunto di Turchia, di Russia, insomma ci riportiamo in qualche modo a una costruzione un po' novecentesca di questo scenario, e all'interno di questi spazi anche gli Stati membri dell'Unione Europea sviluppano questo tipo di politica, e non mi riferisco solamente ai grandi, cioè grandi per dimensioni e numeri, quindi la Germania, la Francia, l'Italia e il Regno Unito con le sue scelte, ma a paesi anche appunto di dimensioni completamente diverse. Mi viene in mente la stessa Slovacchia, presidente di turno dell'Unione, che ha fatto delle scelte di politica estera che vanno direttamente in contrasto con quella che è la linea complessiva che dovrebbe essere dell'Unione. Ecco, quindi è evidente che di fronte poi alle crisi reali, quindi alle pressioni che il fenomeno dei migranti produce sui governi, bene, tutta questa mancanza di unità da parte dell'Unione Europea viene alla luce in maniera più forte. Maurizio Molinari, tu sei stato anche corrispondente per la stampa tanto tempo da Israele. Qual è il ruolo di Israele? Tipo, sta a guardare? Israele è alle prese con lo Stato Islamico su due frontiere, quella del Sinai e quella del Golan, a sud e a nord. Nel Golan è schierata la brigata Yarmouk del Califfato, sono circa 1000 uomini di origine palestinese e giordana, che in più occasioni hanno tentato di avvicinarsi alle frontiere israeliane. I servizi di informazione di Gerusalemme ritengono che lo Stato Islamico stia preparando degli attacchi di terra contro le comunità israeliane che si trovano dall'altra parte del confine. E questo è lo scenario a cui Israele si prepara anche lungo il confine del Sinai. Questo spiega perché Israele sta erigendo un duplice reticolato difensivo. È la prima volta che questo tipo di barriera viene costruita, e il progetto di realizzarla anche al confine con la Giordania lascia intendere che tipo di preoccupazione Israele ha, ovvero che ISIS ripeta contro il suo territorio lo stesso tipo di attacchi che ha messo a segno contro le città irachene tipo Fallujah e Ramadi, ovvero creare delle colonne blindate potenziando i mezzi, sfondando le difese per far entrare delle auto esplosive colme di kamikaze. Alberto Negri, editorialista del Sole 24 Ore, ma si può dire che oggi il califfato, l'ISIS, sia stato sconfitto in molti punti? C'è solo in questo momento in Libia, c'è la battaglia di Sirte, Aleppo non è già più nelle sue mani, oppure invece la battaglia continua e sarà lunga? No, la battaglia sarà certamente ancora lunga, anche perché bisognerà chiedersi cosa fare di questi guerriglieri islamici una volta e posto che verranno sconfitti, no? Sia per quanto riguarda l'Iraq, sia per quanto riguarda la Siria, ma anche la Libia. Vedete, il califfato è un grave pericolo, una grande minaccia, ha portato anche in qualche modo la guerra dentro l'Europa con il terrorismo, ispirando un certo terrorismo jihadista, però è anche una finestra di opportunità per gli stati della regione. In che senso? Nel senso che si stanno rimescolando tutte le carte, si stanno rimescolando le carte in Siria, in Iraq e nella stessa Libia, perché questa battaglia della Sirte di cui parlavate prima vede in realtà opposti il governo di Tobruk e quello di Tripoli, no? Tobruk non ha ancora riconosciuto col generale Haftar il governo di unità nazionale di Tripoli, ed è sostenuto dall'Egitto e dalla Francia. Dall'altra parte ci sono gli Stati Uniti, la Turchia che sostiene i fratelli musulmani e l'Italia che deve difendere i propri interessi in Tripolitania, ma soprattutto che cosa? Cercare di stabilizzare una costa libica dove in Tripolitania il 40% del prodotto interno lordo è ormai costituito dai proventi che si fanno con i migranti e i traffici umani. E si capisce molto bene che questa battaglia contro il califfato, la cosa più importante sarà quello che accadrà il giorno dopo la sconfitta, dove verranno messi, come verranno reintegrati. Per esempio il caso di Al-Nusra è un caso tipico, si cambia nome e in qualche modo si ricicla e si rende questi qaedisti un'opposizione tra virgolette rispettabile. Questo è il grande gioco che c'è oggi in corso. Sì, insomma è una situazione abbastanza complessa. Silvia Dalla Tomasina, coordinatrice medico dell'operazione di Medici Senza Frontiere in Siria del Nord Occidentale. Qual è la situazione sul campo? È stato poi colpito proprio un ospedale di Medici Senza Frontiere? Sì, buongiorno. La situazione nella zona di Idlib, almeno in questo momento, è abbastanza drammatica. C'è stato un aumento dei bombardamenti nella zona di Idlib e le strutture mediche da noi supportate hanno ricevuto almeno 9 afflussi massivi di pazienti feriti dai bombardamenti nell'ultimo mese di luglio, entre le quali c'è stato il bombardamento di un ospedale da noi supportato a Millis, che ha lasciato 70.000 persone senza accesso alle cure ospedaliere. Quindi insomma è stato colpito e qual è la situazione invece che voi sapete ad Aleppo? Si deve fare questo corridoio umanitario perché si teme che poi i cecchini possano sparare sulle persone che magari dovrebbero essere aiutate. Questo è un po' il timore, questo? Il problema, io non mi occupo direttamente della situazione in Aleppo, il problema è il problema che vediamo in tutte le zone assediate in Siria e il problema è un problema di accesso degli aiuti umanitari per la popolazione civile che si trova bloccata in queste zone. Quindi c'è un problema. Maurizio Molinari, ecco, abbiamo sentito proprio una voce sul campo. Qual è la tua impressione? Bisogna fare questo corridoio? Ovviamente bisogna farlo, ma come si può tutelare la popolazione civile ad Aleppo? Ma le Nazioni Unite stanno tentando da oltre un anno e mezzo di creare corridoi umanitari con accordi sulle diverse forze sul campo, nella zona di Aleppo, a Homs e in altre aree. La realtà è che questi tentativi hanno avuto risultati parziali, perché anche quando le tregue vengono concordate i soccorsi umanitari riescono a raggiungere le popolazioni interessate. Tutto ciò si esaurisce nell'arco di un mattino, in pochi giorni. E questo perché continuano a prevalere sul campo logiche di conflitti locali. Anche quando le Nazioni Unite hanno tentato, attraverso Staffan de Mistura, di raggiungere un accordo complessivo sul cessate il fuoco fra Russia e Stati Uniti, in realtà è durato ben poco. Alberto Roberto Negri, editorialista del Sole 24 Ore, l'ultima domanda per te. Questo incontro tra Erdogan e Putin ha fatto capire che lo Stato curdo non esisterà mai? Ma diciamo che la Russia ha mandato un segnale alla Turchia di Erdogan. Fino a qualche tempo fa Mosca insisteva, ha aperto tra l'altro un ufficio, si è stato aperto un ufficio dei curdi siriani a Mosca, e Mosca insisteva sul fatto che anche i curdi siriani avessero una rappresentanza propria loro ai colloqui delle Nazioni Unite. Ora questa richiesta è stata sospesa come per mandare un segnale a Erdogan, ma certamente la questione curda è molto complessa. Come sapete, i curdi sono divisi tra quattro paesi: sono in Turchia, sono in Siria, sono nello stesso Iran, sono in Iraq, dove da tanto tempo ormai hanno una regione autonoma, dove il leader Massoud Barzani ha fa leva anche sul petrolio e sulle sue risorse energetiche per negoziare con tutti nella regione, Turchia compresa. È evidente che l'irredentismo curdo dovrà essere affrontato in qualche modo, dovranno essere trovate delle soluzioni, e queste soluzioni passeranno comunque negli accordi tra superpotenze, tra Stati Uniti e Russia, per capire se cent'anni dopo gli accordi di Sykes-Picot, che in qualche modo disegnarono il Medio Oriente, bene, se queste frontiere dovranno essere o meno cambiate. Siamo di fronte a stati falliti, a stati in disgregazione, e soprattutto, come diceva anche prima Gigi Donelli, legami un tempo inossidabili appaiono incerti, e si fanno accordi di interesse momentanei, soggetti a improvvisi cambiamenti. Anche questa intesa tra la strana coppia Putin-Erdogan è il simbolo non troppo tranquillizzante dei tempi che corrono. Maurizio Molinari, che ne pensi di questo incontro tra Putin e Erdogan? Mette all'angolo l'Europa, mette all'angolo anche Israele, e soprattutto fa sì che uno Stato curdo non possa mai esistere in Medio Oriente? L'incontro di San Pietroburgo recapita un messaggio molto chiaro agli Stati Uniti e all'Occidente. Sta nascendo a immagini dell'Europa un asse strategico fra nazioni di tipo autoritario, ovvero che formalmente vedono i loro leader eletti in maniera democratica, ma questi poi governano come degli autocrati, con un forte controllo sulle forze armate e senza consentire grandi spazi all'opposizione. E questi leader che vanno da Lukashenko ad al-Sisi, ma che vedono Erdogan e Putin nella posizione preeminente, iniziano ad avere convergenze strategiche sulle crisi regionali, a cominciare dalla Siria e dalla lotta ad ISIS. Questo pone per la prima volta dalla fine della guerra fredda l'Occidente di fronte a una sfida strategica da far tremare i polsi. Sta nascendo un'altra alleanza ai nostri confini, un'alleanza tra stati autoritari. Cioè, tu dici alla fine si sono incontrati due personaggi che comunque hanno avuto una svolta anche autoritaria nei loro paesi. Erdogan subito dopo il fallito golpe e Putin da molto tempo. Questo è il problema. Quindi la democrazia europea, che invece si nutre di molta opposizione, di molte discussioni, è messa all'angolo da questa svolta autoritaria. Esatto, e la difficoltà per l'Occidente sta nel fatto che uno di questi due paesi, la Turchia, è membro della NATO. Quindi noi oggi ci troviamo di fronte al secondo esercito della NATO per potenzialità militare, che di fatto ha convergenze strategiche con la Russia superiori a quelle che ha con gli Stati Uniti. Maria Quinto, responsabile del progetto della comunità di Sant'Egidio Corridori Umanitari. Voi avete portato alcuni profughi siriani e l'avete portati a curare in Italia, è così? Sì, salve, buongiorno. Effettivamente è un progetto, quello dei corridoi umanitari, che si propone di portare in salvezza delle persone, dei profughi richiedenti asilo che sono in transito in Libano, cioè che hanno vissuto per un certo periodo fuggiti dalla Siria in Libano. e sono circa 300 persone che sono arrivate fino adesso, ed è un progetto appunto che è iniziato quest'anno ad opera della comunità di Sant'Egidio e della Federazione delle Chiese Evangeliche e della Tavola Valdese. Silvia Della Tomassina, quante persone salvate con Medici Senza Frontiere? Cosa succede per esempio nei casi più disperati? Riuscite a mandare queste persone fuori dal conflitto siriano e magari a curarsi in Occidente? Dunque, le 150 strutture che sono in questo momento strutture mediche che sono supportate in Siria coprono una popolazione di milioni di consultazioni al mese. Allo stesso tempo nelle zone assediate c'è ancora un problema di evacuazioni mediche, mesi che chiediamo il fatto che le evacuazioni mediche di pazienti gravi possano essere accettate per tutte le parti in causa nel conflitto e che questi pazienti possano avere accesso a delle cure specialistiche, ma è ancora molto difficile e non sempre è possibile. Sul campo voi avete trovato tutti i tipi di combattenti, quindi voi curate tutti coloro che vengono a chiedere il vostro aiuto? MSF dona accesso a tutti i pazienti senza discriminazione di partito politico, di religione, di credenze. Una volta che un paziente è in un ospedale rimane e resta un paziente che deve essere curato. Quindi è molto difficile poi, no, stabilire chi arriva e chi non arriva, però voi ve ne curate, cioè vi curate del paziente stesso. Nella sua esperienza ci sono molti curdi che vengono a curarsi da voi? Questo è difficile per me dirlo perché non mi occupo della coordinazione delle nostre operazioni in zone curde, soprattutto perché non chiediamo l'origine del paziente e non sono dati che chiediamo e per questo non abbiamo dati sulle origini dei pazienti. La ringrazio perché ci ha spiegato anche come funziona Medici Senza Frontiere. Maria Quinto, della comunità di Sant'Egidio, quante persone avete portato in Italia? Qual è stata una storia di successo? Una persona che avete salvato? Mi ricordo c'era anche una bambina. Insomma, c'è speranza. Vogliamo chiudere questa ora in cui abbiamo parlato della tragica situazione d'Aleppo con una luce di speranza. Sì, indubbiamente sì, c'è speranza, cioè nel senso che appunto noi al momento abbiamo portato circa 300 persone, appunto il progetto prevede diverse altre centinaia di persone, particolarmente siriani ed iracheni che possono arrivare in Italia. E ci sono persone che sono portatrici di varie fragilità, di varie vulnerabilità, ci sono delle persone che sono malate di tumori o di altre malattie che non avevano possibilità di accedere alle cure in Libano, lì dove si trovavano, e chiaramente erano dovute già uscire dalla Siria. E in particolare posso ricordare anche la storia di un altro bambino, Dia, che ha perso una gamba per lo scoppio di un ordigno appunto nel conflitto ad Homs, che nel giro di poco tempo dal suo arrivo in Italia la sua vita è completamente cambiata, insomma, e adesso può correre, camminare con la sua nuova protesi e studiare, andare a scuola, quindi vediamo come appunto la vita di queste persone riprende forza e riprende una speranza, superando appunto tutte le violenze e i traumi che li hanno segnati. Io ringrazio Alberto Negri, giornalista del Sole 24 Ore, Giuseppe Agliastro, giornalista dell'ANSA Mosca, Gigi Donelli, nostro caporedattore esperto di esteri, Maurizio Molinari, direttore del quotidiano La Stampa, Silvia Dalla Tomassina, coordinatore medico delle operazioni di Medici Senza Frontiere in Siria Nord-Occidentale, Maria Quinto, responsabile del progetto Comunità di Sant'Egidio Corridori Umanitari. Vi ricordo che nella seconda ora parleremo di amicizia, aspetto le vostre telefonate 800 24 0024. esiste l'amicizia tra donne, esiste l'amicizia tra uomo e donna, e chi è veramente un amico, perché solo un amico su due magari è un vero amico. Il nostro numero poi per gli sms 349-238-6666. Ricordate quindi di chiedervi chi è veramente il vostro amico del cuore o la vostra amica del cuore. Linea al GR. Ma cos'è quest'estate? Che amica sei, non tradirmi mai. Gli amori vanno, tu resterai. Che amica sei, chiama quando vuoi. Se hai bisogno di ridere un po'. In questa seconda parte invece ci occupiamo di amicizia, amicizia in senso lato. Ci sono gli amici a senso unico, ci sono gli amici che non lo sono veramente, anzi, secondo uno studio, uno su due è un vero amico, come dice il vecchio proverbio, chi trova un amico trova un tesoro. E poi c'è l'amicizia tra donne, l'amicizia tra uomini e donne, esiste, non esiste, e anche come rompere un'amicizia sui social media, perché sta diventando più difficile romperla sui social media che nella vita reale. Ne parliamo con i nostri ospiti. Prima tra tutti Francesca Del Rosso, una nostra autrice di Radio 24 e che ha scritto un romanzo, breve storia di due amiche per sempre, in uscita con Mondadori il 27 settembre. Francesca Del Rosso, credi nell'amicizia tra due donne? Secondo me l'amicizia fra due donne esiste ed è fortissima. Infatti è per questo che io ho voluto dedicare un romanzo a questo tema, perché negli anni mi sono accorta che noi donne riusciamo a creare un legame fortissimo. Spesso crediamo di riuscire a crearlo sin dall'adolescenza, ma non sempre poi riusciamo a portarlo avanti fino all'età adulta, perché chiaramente possono succedere tante cose che in qualche modo ci allontanano. Però il legame che si crea fra due donne, secondo me, è qualcosa di incredibile, fortissimo. L'importante è che siano due donne in qualche modo risolte, e per cui non devono poi subentrare, diciamo, i classici temi della rivalità piuttosto che della gelosia. Di cosa parla Breve storia di due amiche per sempre? Questo è un romanzo che racconta una promessa, quella che si fanno tantissime ragazze durante la propria adolescenza, cioè saremo amiche per sempre. Quante volte noi donne, noi ragazze lo abbiamo detto da giovani, e quante volte ci abbiamo davvero creduto, e non sempre poi questa promessa viene mantenuta. In questo romanzo io ho voluto crederci, ci ho voluto credere fermamente, e quindi le due protagoniste che si incontrano da ragazze, proprio da giovanissime durante gli anni del liceo, si giurano amicizia eterna, poi qualcosa le divide e poi si rincontrano 20 anni dopo. Sono due donne molto diverse, ma in qualche modo quel legame che avevano creato le riesce a mantenere unite, si ritrovano e magari addirittura scoprono qualcosa di loro stesse che in quei 20 anni di silenzio e di assenza dell'amica non avevano ancora scoperto. E quindi ho voluto proprio fare un inno all'amicizia femminile, intesa come quel legame che può legare per sempre. Ci sono quindi due protagoniste. Con chi ti identifichi delle due? Allora, in realtà io mi identifico in entrambe le amiche, sono due donne molto diverse. Diciamo che quella parte più biografica, autobiografica di questo romanzo è il fatto che io ho sempre pensato di riuscire ad avere un'amica per sempre, non è detto che poi io ci sia riuscita, e ho scoperto oltretutto parlando con altre donne, ma anche con gli uomini, che molto spesso succede che un amico o un'amica scompaia dalla propria esistenza senza un vero perché, o comunque non sempre noi riusciamo veramente a capire perché un'amicizia finisce. questo nodo, questo segreto, questo mistero legato al fatto che un'amicizia si possa rompere senza un motivo forte, è quello che mi ha spinto a scrivere il romanzo. Le due protagoniste sono due ragazze che poi crescendo una è diventata una donna più di carriera, più lanciata nel mondo dei motori, nel mondo del diciamo della Milano che corre veloce, che è frenetica, e l'altra invece si è dedicata più alla famiglia e più a un lavoro tranquillo nel campo dell'editoria. Entrambe però evidentemente hanno un tassello mancante che poi ritrovano nel momento in cui si ritrovano come amiche. Qual è il consiglio che da quarantenne dai a due giovani ragazze per la loro amicizia e che cosa non devono incorrere per evitare contrasti? Beh, allora innanzitutto c'è sempre latente un senso di rivalità o di emulazione della persona amica, anche perché noi veniamo attratti sempre da qualcosa che ci piace, che magari non abbiamo, e questo va bene fino a quando è qualcosa di sano, cioè del volersi migliorare. Inizia a non andare bene quando invece si crea una rivalità o un'ossessione nei confronti dell'altra persona. C'è da dire una cosa, io ormai ho da poco superato i 40 anni, per quanto io mi senta molto molto giovane, ammetto che mi sono accorta di quanto siano differenti i rapporti, anche di amicizia, tra le ragazze di oggi e le ragazze di ieri, anche solo per l'uso dei social media. Se io 20 anni fa, 30 anni fa volevo dimenticare un'amica, non ci mettevo molto, non rispondevo più al telefono, che era un telefono fisso, e cambiavo giro di amici e magari non li ritrovavo più. Oggi è tutto diverso, chiaramente con Facebook e con le chat dei telefoni, voglio dire, anche se tu vuoi sparire dalla vita di un'amica o di un amico, in qualche modo tu sei sempre rintracciabile, quindi c'è una grossissima differenza. Magari poi cioè il tenore e la forza di quelle amicizie e la potenza di quelle amicizie è sempre la stessa, però è anche vero che è molto più difficile scomparire. È anche altrettanto vero che l'amicizia e la presenza di queste amiche spesso non è poi così tangibile come quella che avevamo noi di una passata generazione, cioè noi eravamo presenti sul campo veramente. Qui io vedo amiche che dicono sì, noi siamo amiche perché ci scriviamo su Facebook, perché rimaniamo sempre aggiornate sui social media, poi magari scopri che non si vedono da 3 mesi quelle due amiche. Quindi ecco, secondo me l'amicizia vera è comunque un'amicizia fatta di presenza, quindi di guardarsi negli occhi e di cercare di dirsi sempre la verità anche quando fa male. Io so che hai anche una figlia, che cosa le consigli? Che cosa le consigli con le sue amiche? Beh, allora, io ho una bambina che si chiama Angelica, ma che non lo è particolarmente nella vita, ha 10 anni, ha le sue amichette di classe e devo dire che ci sono regolarmente scene e tragedie sulla migliore amica, perché chiaramente io oggi sono migliore amica di Giulia, poi domani non sono più migliore amica di Giulia ma sono la migliore amica di Matilde, e questi continui cambiamenti di migliore amiche creano drammi familiari, bambine che piangono all'uscita di scuola, sono tenerissime. Io quello che continuo a ripetere a mia figlia è che per quanto poi possa succedere che poi una persona possa avere una migliore amica, continuo a sostenere che è meglio averne tante, e quindi di non essere troppo esclusiva, ma di prendere il bello da tutte le sue amiche, di darsi anche lei, chiaramente alle amiche con cui si trova meglio, nel modo più generoso possibile. Insomma, l'esclusività non sempre è qualcosa di positivo, soprattutto perché se poi quell'esclusività viene rotta per un qualsiasi motivo, poi dopo si soffre molto di più. Quindi meglio avere più amiche e cercare di essere generose. E chiaramente per delle bambine non è facile, farlo capire, però diciamo che io ce la metto tutta e forse è quello che poi ho imparato crescendo. Io forse anch'io da adolescente pensavo voglio una sola amica, la mia migliore amica, adesso sono ben contenta di averne più di una e ognuna di loro mi dà qualcosa come io spero di dare a loro. Esiste l'amicizia tra uomo e donna, Francesca, ci credi? Allora, io penso che la cosa che ho notato di più è che gli uomini fanno molta fatica a essere amici come lo intendiamo noi donne, cioè sono molto orsi, sono poco inclini all'apertura, difficilmente tirano sul telefono per sapere un amico come sta, ci deve sempre essere un motivo contingente per sentirsi, cosa che noi donne invece non facciamo, anzi, ed è, devo dire, quello che ho imparato è che bisogna pensare che l'amicizia è qualcosa veramente da coltivare con fatica e sacrificio, non è tutto solo un piacere. Ci sono delle serate in cui magari vorresti rimanere a casa, non fare niente, ti chiama una tua amica che ha bisogno, tu prendi, ti alzi e vai. Oppure non ti chiama ma capisci che ha bisogno di te, anche se per te in quel momento è una fatica, quella fatica tu la devi fare. Quindi insomma l'amicizia è anche un po' di sacrificio e un po' di fatica e questo secondo me i maschi lo fanno poco, anche perché sono persone normalmente, chiaramente stiamo generalizzando, meno inclini all'apertura e così alla profondità di alcuni argomenti, insomma, tendenzialmente vanno a bersi una birra e finisce lì. Noi invece siamo lì che ancora alle 3 del mattino saremmo lì a raccontarci tutti i nostri pensieri più reconditi. Per quanto riguarda invece l'amicizia fra uomo e donna, che dire, io ci credo, nonostante molti sostengano che non sia possibile, credo sia assolutamente molto bello e molto importante, gratificante e possa insegnarci molto del genere opposto, quindi io dai miei amici maschi magari riesco a carpire informazioni e ragionamenti che tramite con una mia amica non potrei mai imparare, quindi diciamo mi aiutano a capire meglio il genere maschile e quindi sono amicizie che possono regalare anche queste grandi soddisfazioni. Chiaramente non ci deve essere nessun tipo di attrazione sentimentale o fisica, ma questa, voglio dire, nel momento in cui si è due persone mature credo che poi sia piuttosto gestibile. Immagino che sia più difficile quando si è più giovani, quando l'ormone viaggia a una velocità diversa. Adesso mi sembra, alla mia veneranda età, credo che questa cosa non possa succedere e se succede mi accorgo che non è quel genere di amicizia che è quella che voglio io, ecco. Noi ringraziamo Francesca Del Rosso con questa bellissima voce di Giorgia, ricordiamo il suo romanzo in uscita il 27 settembre per Mondadori, breve storia di due amiche per sempre, e ricordiamo anche il numero verde per le vostre chiamate 800240024. Esiste l'amicizia tra donne, esiste l'amicizia tra uomo e donna e poi quanti dei vostri amici sono veri amici? Abbiamo già i primi sms, perché Toco ci dice: amico che significa? In Italia si usa in modo improprio verso chiunque e Toco dice: io sono giapponese. Amico è per sempre fino alla morte, anche quando non ci si frequenta più, dice Silvano. Quindi è un tema che divide, unisce. Alfredo da Roma dice: l'amica del cuore, la mia compagna Lisa era solo amicizia e si è trasformata in amore. Per parlare di questo tema abbiamo con noi Gianna Schelotto, scrittrice, psicologa, psicoterapeuta della coppia. Un mese fa è anche uscito il suo ultimo libro, Chi ama non sa, di Rizzoli. Ecco, secondo una ricerca recente c'è una difficile percezione dell'amicizia, perché molti considerano amici coloro che non lo sono. È così, Gianna Schelotto? Sì, è così perché molti cercano attraverso l'amicizia vera o presunta di superare i propri problemi. Voglio dire, le persone molto insicure attribuiscono ad altri sentimenti positivi perché ne hanno un gran bisogno, proiettano sugli altri, sugli uomini o sulle donne, i propri sentimenti e immaginano che loro, come attribuiscono a loro gli stessi sentimenti che hanno in prima persona. E di qui nascono i grandi equivoci. Accade spessissimo che qualcuno dica quello lì è mio amico e invece l'altro assolutamente non lo considera tale. C'è poi anche una sorta di sotterranea mitomania, cioè se io racconto in giro di essere amica di una persona importante o semplicemente una persona in vista, a mia volta sono ritenuta importante. Queste sono le trappole, diciamo, dell'attribuzione dell'amicizia. Ecco, professoressa, questa situazione si è acuita con i social network, perché con Facebook, come sentivamo da Francesca Del Rosso, basta essere amici su Facebook e ci si considera amici, poi in realtà non è così. Sì, ma a me colpisce molto che quando qualcuno si iscrive in Facebook poi fa una richiesta di amicizia. In realtà l'amicizia non avrebbe bisogno di richiesta, l'amicizia nasce spontaneamente per affinità, per condivisione, e quindi già questo fatto che l'amicizia va richiesta mi sembra che la dica lunga sul tipo di amicizia o comunque su quanto possano essere superficiali questo tipo di unioni, questo tipo di legami. Ecco, questa ricerca del Massachusetts Institute of Technology ha praticamente analizzato i legami amicali di un gruppo di 84 studenti tra i 23 e i 38 anni iscritti allo stesso corso di business management e hanno chiesto di valutare il rapporto che li legava agli altri usando un punteggio da 1 a 5 su una scala che andava da non conosco questa persona a uno dei miei migliori amici. La valutazione di amicizia reciproca corrispondeva solo nel 53% dei casi, ma gli intervistati ritenevano che lo facesse il 94% delle volte, vale a dire che magari io indicavo quello come il migliore amico e quello assolutamente non si sentiva tale. Insomma, chi è che ha più aspettative nell'ambito dell'amicizia? Ovviamente la persona più debole? Le persone più insicure, le persone meno contente di sé, che vedono nell'amicizia un'aggiunta, una sorta di puntello alla propria identità malcerta. Ecco, questo è il fatto di pensare che qualcuno mi sia amico mentre l'altro assolutamente non mi considera, è proprio un bisogno di puntellare, di avere conferme della propria identità. Dottoressa Schelotto, qual è la sua esperienza riguardo ai giovanissimi? Ci sono queste amicizie che durano tutta una vita? Perché all'epoca forse nostra si litigava, si facevano percorsi diversi, come abbiamo sentito poi nel libro di Francesca Del Rosso, però poi magari a 40-50 anni, abbandonata un po' la rivalità, soprattutto tra donne, ci si ritrovava ad essere amiche. Il mondo di oggi, il mondo dei giovanissimi, coloro che si affacciano oggi, che hanno 11, 12, anche 15 anni, 18 anni, riuscirà poi a mantenere questi legami per tutta la vita, quelli che si fanno a scuola, poi all'università, poi al lavoro? Allora, si tratta di amicizie, i giovani di oggi come i giovani di un tempo hanno le stesse psicologie rispetto all'amicizia, il bisogno dell'altro, il confronto, la conferma. Queste amicizie restano latenti, possono restare latenti per decenni, nel senso che c'è l'amicizia quella che dura costantemente, l'amico al quale io posso telefonare quando sono giù di corda oppure per comunicargli qualcosa di bello che mi è accaduto. Ci sono invece le amicizie, quelle soprattutto della prima giovinezza, che restano come pietre miliari dentro di noi e accade che dopo anni ci si incontra e si riesce a sentire una reciprocità come se non fossero passati tutti quegli anni e quindi ci si aggiorna su quello che è accaduto, ma in genere restano legate a quel tempo. Voglio dire, ci sono le grandi rimpatriate, ma sono di tipo nostalgico, non di tipo attuale. Cioè non si frequenta poi quel tipo di amico magari tutti i giorni, si perdono. Quando ci si ritrova è come se non ci si fosse mai persi, ma in realtà superata la fase del ti ricordi, che fine ha fatto il tale, che fine ha fatto il tal'altro, a quel punto però ci si accorge che non si ha più molto da dire. ma non cade l'emozione di aver rivissuto quel tempo, che è stato un tempo felice. Ennio ci scrive: se in tutta la vita trovi un solo vero amico o amica è un vero miracolo. Troppi luoghi comuni sull'amicizia tra donne, in realtà nella maggior parte sono amiche solo quando c'è un tornaconto. Ma che disastro, io mi credi. Ho scelto te una donna per amico, ma il mio mestiere è vivere una vita che sia di tutti i giorni sconosciuta. Ti odio forte, debole compagna, che poche volte impara troppo insegna. C'è una gomma ancora che non si buca, il mastice sei tu mia vecchia amica. Oh, la pezza sono io, ma che vergogna, che importa, tocca a te, avanti sogna. E noi ricordiamo gli sms 349-238-6666, il numero verde per le vostre telefonate 800-24-0024. Francesca Rigotti, filosofa e docente all'Università della Svizzera Italiana, autrice assieme ad Anna Longo del libro Una donna per amico, dell'amicizia in generale e dell'amicizia delle donne. Esiste l'amicizia tra donne o c'è sempre una rivalità, un'invidia, un qualcosa che non funziona? Allora, io posso rispondere, innanzitutto grazie per l'invito a parlare di questo argomento, posso rispondere per quanto riguarda la tradizione filosofica, no? E la cosa bizzarra è che la tradizione filosofica occidentale, insomma il nostro pensiero, si è molto occupato dell'amicizia, ma ha non solo trascurato l'amicizia tra donne, ma ha negato la possibilità che le donne possano essere amiche tra di loro, quindi non nemmeno amiche, poi rivali, gelose, eccetera, no, ha le donne al sesso debole, cosiddetto il senso dell'amicizia, il sentimento dell'amicizia è negato. Allora, quali potrebbero essere le giustificazioni, quali sono state le giustificazioni addotte in questo senso? Probabilmente quello che l'ha detto più chiaramente è stato nel 1500 il pensatore francese Michel de Montaigne: le donne sono deboli, infatti vengono ancora chiamate il sesso debole, e quindi non sono in grado di stringere un legame forte come quello dell'amicizia, che è un legame tra maschi, è un legame maschile. Io però vorrei un attimo, se posso riprendere la... La interrompo un attimo per pochi secondi, pubblicità. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. Ma cos'è quest'estate? E ricordo il tema di questa seconda parte: l'amicizia tra donne, l'amicizia tra uomo e donna, quando si rompe un'amicizia su Facebook, sui social network. 349-238-6666. Stefano ci scrive: amicizia come puntello? Beh, che male c'è? Mio figlio ha 15 anni, è un'amica del cuore, dice un altro radioascoltatore, hanno storie parallele e nessun interesse sentimentale l'una verso l'altra. Per fortuna c'è lei, dato che praticamente non ha altri amici maschi, quindi sentiamo che è un tema che divide. E abbiamo in linea un radioascoltatore, Franco da Roma. Qual è la sua esperienza, Franco? La mia esperienza, naturalmente. Pronto, buongiorno. Pronto? No. Buongiorno. Pronto? Franco, sì, mi sente, Franco? Sì, io la sento bene. Ok, qual è la sua esperienza? Allora, io parlo naturalmente da ragazzo, perché adesso non sono più ragazzo, ho 70 anni. Allora, io ho avuto, diciamo, due amiche. Prima cosa erano ragazze dei miei amici. Io i ragazzi e i miei amici l'ho sempre, diciamo così, rispettato. Scusi, sono un po' emozionato perché stavo camminando. Allora, sempre rispettate, perché se provi con la ragazza di un tuo amico, se ci sta, hai trovato una cattiva ragazza e perdi un amico. Non hai fatto un affare perché cattive ragazze. Quindi lei l'ha sempre rispettata. E invece cosa è successo? Che siamo stati amici per anni, veri amici, ancora ci incontriamo dopo anni, siamo nonni tutte e due, sia con la ragazza sia con l'amico naturalmente. E sempre ci siamo raccontati tutto, avevamo un rapporto perfetto. E questo è che è possibile, amicizia fra ragazzo e una ragazza, non c'è niente di strano. Non c'è niente di strano. Questa è l'esperienza allora di Franco. Dottoressa Francesca Rigotti, c'è questo tema sia sull'amicizia sulle donne, tra donne, sia sull'amicizia tra uomo e donna. Esiste, non esiste? Come ha detto il radioascoltatore Franco da Roma, noi lo constatiamo, no? Che esistono amicizie tra uomo e donna, che esistono amicizie tra donne, come esistono amicizie tra uomini, ma quello che io ho voluto mettere in rilievo nel mio testo è che tutto questo viene come scotomizzato, no? Non viene visto dalla tradizione del pensiero filosofico, che pure invece dovrebbe portare argomenti positivi verso questa cosa. E invece lì si dice no, le donne non possono essere amiche tra di loro innanzitutto perché non conoscono il sentimento dell'amicizia, non possono conoscerlo, non fa parte del loro DNA, e anche l'amicizia tra uomo e donna insomma è una specie di amicizia ovviamente che procede dall'alto, che procede dal maschio verso la femmina, come l'uomo e il cane, scusatemi il paragone poco ovviamente poco ortodosso, e di conseguenza la donna ha sempre questa figura inferiore e al massimo può diventare, ecco, vorrei usare un termine che è stato ripreso recentemente in questi giorni, musa ispiratrice. È morta in questi giorni Marta Mazzotto, è vero? Ed è stata ricordata molto spesso sui media con questa terminologia, è stata la musa ispiratrice di Renato Guttuso. E io sono saltata letteralmente sulla sedia ogni volta che l'ho letto e l'ho sentito, perché non è una bella cosa essere la musa che ispira la creatività di un altro. Cioè, la cosa più bella è esercitare la propria creatività, come esercitare l'amicizia, insomma, farlo in prima persona, non essere sempre questi soggetti oggetti di un'attenzione che viene da parte di un altro. Quindi lei ci sta dicendo che il costume sta evolvendo, come auspicava poi la grande Virginia Woolf, che scrisse poi Orlando proprio per contrastare il fatto che le donne dovrebbero poter scrivere, dipingere come in passato non era possibile fare, e quindi che le donne avranno sempre più un ruolo determinante e non saranno relegate alla rivalità interna in una casa. Per fortuna siamo in Occidente, noi donne possiamo dipingere, non essere muse ispiratrice, ma cerchiamo i musi ispiratori. Questo è. Esatto, ma senta Elisabetta, non è tanto questo che il costume si sta evolvendo, sì, questo certamente, ma per fortuna si sta evolvendo lo sguardo con lo quale si considerano i fenomeni, perché io sono convinta che nell'antichità, quando Cicerone diceva le donne non possono essere amiche, ma figurarsi quante ragazze erano amiche tra di loro nella Roma antica, non lo crede anche lei, ecco, e quindi quello che sta cambiando per fortuna è l'occhio con cui si guardano queste cose, ma non completamente. Allora, io volevo prendere in esame, se ho il tempo, sia un attimo Una donna per amico, la canzone che abbiamo sentito prima di Lucio Battisti, Belle e Mogol, e sia, canzone bellissima per carità, e sia un famosissimo film sull'amicizia femminile che è Thelma e Louise. Posso dire due parole? Certo, e che cosa pensa di questi? Allora, intanto della canzone di Battisti. Ecco, penso della canzone di Battisti, che sia senz'altro una canzone carina, tant'è vero che sia rimasta, no, nella memoria collettiva, però abbia sempre questo atteggiamento della scelta del maschio, della eventuale amicizia con una donna e del porselo come domanda. Il fatto poi che questa amicizia possa diventare, possa trasformarsi in amore, ma che male c'è? Ma perché non dovrebbe essere? Anche i confini tra l'amicizia e l'amore sono così labili in fondo. E ci sono coppie famose di amici anche lì nell'antichità, Achille e Patroclo, erano amici, erano innamorati, e probabilmente erano tutte e due, che male c'è? E l'altro appunto invece era Thelma e Louise, sì, che quel, sì, con Susan Sarandon, un film stupendo. Sì, sì, molto bello, del 91, è un film quindi già di qualche anno fa, ed è forse il primo evento che scardina questa idea appunto della non amicizia tra le donne, soprattutto dell'amicizia raccontata, perché ci sono tantissimi romanzi, film, storie sugli amici maschi, ma sulle amiche donne. Adesso c'è anche Elena Ferrante, magari potremmo dire ancora qualcosa. L'amica geniale, una quadrilogia molto molto bella, sì, sulle due amiche. Gianna Scherotti, abbiamo sentito Francesca Rigotti citare Thelma e Louise con Susan Sarandon e Gina Davis, mitico film. C'è stato però un'evoluzione, perché in questo ha aiutato anche la televisione con la serie Sex and the City, perché c'erano queste quattro donne che erano quattro donne di successo nella New York degli anni 90-2000, che si riunivano poi per parlare di uomini, ma non solo. Sì, certo, c'è stata un'evoluzione, perché come mai per tanti decenni, per secoli, si è pensato che le donne non potessero essere amiche? Perché in realtà la complicità tra donne faceva paura. Questo dal punto di vista psicologico, due donne che parlano di uomini spaventano, e quindi è questo uno dei motivi per i quali l'amicizia tra donne ha spaventato tante persone ed è ritenuta impossibile. Invece non solo è, a mio parere, l'amicizia tra donne è un sentimento forte, ma è forte anche ormai sempre di più l'amicizia tra uomo e donna, perché essendo caduto il tabù della sessualità, ormai ci troviamo spesso di fronte ad un termine che io trovo bruttissimo, ma che è molto eloquente, che è quello di trombamici, cioè il sesso non è più un tabù tra due persone e non è più legato esclusivamente all'amore, e quindi essendo caduta anche quella barriera è chiaro che bisogna rivedere tutti i nostri concetti sull'amicizia tra gli uomini e le donne e tra le donne. Ma il tema fondamentale secondo me continua a essere quello rivelato dalla ricerca di cui parlavamo prima, e cioè che spesso si attribuisce, si proiettano sugli altri i propri bisogni, e questa non è l'amicizia vissuta, ma è l'amicizia presunta che per certi versi fa da puntello alle nostre identità incerte. E quindi poi, che siccome è un'amicizia presunta, può causare anche dei litigi. Damiano da Roma ci scrive che Musa Ispiratrice è una persona fantastica e che il nostro femminismo è anacronistico. Buongiorno, sono single invece, ci dice Barbara, e il mio migliore amico è un uomo sposato. Forse proprio per questo possiamo essere amici e confidenti senza implicazioni di sesso, che rovina spesso le relazioni. Penso che sia un affetto fraterno, quindi vediamo che è un tema che divide. Nico dice: a 12 anni ho incontrato il mio migliore amico e a 40 anni ci vediamo ancora una volta alla settimana come a 12 anni, tutte le settimane, entrambi fidanzati con una donna, e quindi si raccontano poi le loro storie. Quindi non è detto che poi anche gli uomini non abbiano un legame in cui si va a bere una birra, si stanno forse femminilizzando, perché prima avevamo sempre il concetto che gli uomini facessero amicizia perché andavano a giocare a calcetto generalmente, però non è solo quello. Allora, io intanto vorrei stuzzicarvi con una clip di un famosissimo film che ha poi scortato e accompagnato milioni di ragazzi. Ti rendi conto, vero, che non potremo mai essere amici? Perché no? Beh, ecco, e guarda che non ci sto provando in nessunissimo modo. Uomini e donne non possono essere amici perché il sesso ci si mette sempre di mezzo. No, non è vero. Io ho tantissimi amici maschi e il sesso non c'entra per niente. Non è così. Sì, invece. No, invece. Sì, invece. Tu credi che sia così? Stai dicendo che io ci vado a letto senza accorgermene? No, sto dicendo che loro vogliono venire a letto con te. Non è vero. È vero. Non è vero. È vero. E come lo sai? Perché nessun uomo può essere amico di una donna che trova attraente. Vuole sempre portarsela a letto. Allora stai dicendo che un uomo riesce a essere amico solo di una donna che non è attraente? No, di norma vuole farsi anche quella. Ma se lei non vuole venire a letto con te? Non importa, perché il click del sesso è già scattato, quindi l'amicizia è ormai compromessa e la storia finisce lì. Ah, credo che non saremo amici allora. Credo di no. Ah, è un peccato. Eri l'unica persona che conoscevo a New York. E questo era Billy Crystal e Meg Ryan in Harry ti presento Sally, per introdurre anche un altro ospite, Antonio Pascale, scrittore e giornalista. Nel 2012 ha scritto sulla 27esima ora, il blog femminile del Corriere della Sera, articolo Amicizia, uomo, donna, non ci credo. È ancora così? Sono passati 3 anni, hai trovato qualche amica nel tuo cammino? Buongiorno a tutti, però quell'articolo diceva un'altra cosa, cioè raccontavo della rottura del contratto seduttivo, cioè insomma gli uomini e le donne fanno un contratto seduttivo per cui insomma un uomo tenta di sedurre una donna mandando dei segnali. Invece qui capitava l'opposto, cioè la donna credeva che l'uomo mandasse dei segnali, mentre invece lui voleva soltanto essere amico, come se ci fosse stato un capovolgimento, un cambio di codice, insomma raccontavo semplicemente questo. Per me sta cambiando il vecchio codice, nel senso che io sono di cultura meridionale e sono stato un po' abituato a seguire l'imperativo culturale, cioè insomma sedurre continuamente, fare il simpatico, insomma dare un segno di disponibilità permanente. Questo codice ormai che mi riguarda sta scemando, perché le mutazioni culturali antropologiche lo stanno cambiando, quindi sì, penso che si possa anche essere amici. Ma nella tua vita hai mai avuto una relazione di amicizia con una donna che magari non ti piaceva, alla quale tu non piacevi? Perché poi il problema dell'amicizia tra uomo e donna è sempre una linea sottile in cui uno dei due è attratto ma non lo confessa perché l'altro ha deciso che è un amico o un'amica. È proprio così. In realtà io quando ero molto giovane avevo un'amica. Poi non l'ho mai più avuto le amiche, sono un po' rimango un po' materialista, penso che le persone si conoscono perché hanno una convenienza a conoscersi, è un obiettivo preciso, se questo obiettivo magari è mancato si può sublimare questo obiettivo con altre forme di sentimenti, tutte molto nobili, però non mi piace dire che tutto comincia soltanto per amicizia, insomma sembra un termine molto vago, molto vago. Credo che inizi con altri scopi, il mancato raggiungimento di questi scopi può far defluire il sentimento in un'altra direzione. E abbiamo qualche radioascoltatore, Diego da Pavia, anche lei non crede nell'amicizia tra uomo e donna perché la sua compagna l'ha lasciato, insomma ci racconti la sua storia, che cosa è successo? Sì, assolutamente. Buongiorno innanzitutto. Io non credo per esperienza personale nell'amicizia uomo-donna. La mia compagna aveva un amico e io sapevo di questa amicizia, era anche amico mio. Lei e lui mi hanno sempre assicurato che era solo e esclusivamente un'amicizia che è durata anche abbastanza tempo. Salvo poi scoprire che da un'amicizia è nato qualcosa in più che è cresciuto e alla fine ho scoperto che non era più solo un'amicizia ma è diventata anche un rapporto d'amore, insomma. Quindi lei poi alla fine non ha visto più né lei né lui? Io assolutamente no, non il triangolo no. Nel senso, non l'avevo considerato. Però no, non l'ho proprio considerato e non lo considero, insomma. Ma cosa è successo poi? Loro due si stanno ancora insieme, che lei sappia, è stato un grande amore o semplicemente no, è stato un battito d'ali, quindi non valeva forse... È stato un battito d'ali, non ne valeva la pena, cioè, poi lei ha anche provato a tornare, però poi dopo quando le cose si rompono. Si rompe, cioè lei poi ha provato a ritornare sui suoi passi, ma lei aveva subdorato che stava nascendo qualcosa tra loro due? Io sì. Avevo intuito la cosa e mi ero anche opposto, salvo poi essere diciamo accusato di estrema gelosia, di vedere cose che non esistono. Invece aveva visto giusto, ecco. Avevo visto giusto e come avevo sempre sostenuto, l'amicizia fra uomo e donna secondo me non può esserci, e lo spezzone di RT Presento Sally che avete mandato poco fa inquadra perfettamente quello che io penso, cioè un uomo quando è amico di una donna ha sempre come fine il fine sessuale, il fine della relazione. Questo è il mio parere, insomma. Questo è il suo parere, questa è la sua esperienza. Grazie allora a Diego da Pavia. Abbiamo anche Stefano da Cogne, però un attimo se ci attende, perché voglio chiedere a Gianna Schelotto. Ecco, esiste questa attrazione tra uomo e donna, anche in un'amicizia tra uomo e donna? Cioè, magari nasce all'inizio con una piccola attrazione l'uno nei confronti dell'altro? Sì, ma a quel punto evidentemente non è più un'amicizia, cioè nel momento in cui interviene il desiderio sessuale o comunque la voglia di stare insieme in modo diverso, non è più un'amicizia nel senso tradizionale del termine. Mentre invece sempre di più si affermano queste amicizie di cui parlavo prima, cioè queste persone che ritengono di poter essere amiche e per l'amicizia il sesso non è più un problema, non è più un blocco. Quindi adesso siamo in questa fase di cambiamento, per cui quando si è molto soli, quando anche il sesso può diventare una sorta di puntello, ma non ha niente a che fare con l'amore, non ha niente a che fare, si ritiene perlomeno o si afferma che questo non ha niente a che fare con l'amore, soltanto con un'intensificazione del rapporto amichevole che, come dire, è soccorrevole, così come ci soccorre quando siamo tristi, quando abbiamo dei problemi, anche dal punto di vista della mancanza di sessualità può essere un soccorso. Questo naturalmente è una impostazione ipermoderna dell'amicizia, sulla quale io ho qualche dubbio, però so per esperienza, anche dalle persone che mi scrivono nel forum, che questa cosa sta imperversando. Ringraziamo Gianna Schelotto, Lina Strade in diretta. Ma cos'è quest'estate? E noi continuiamo a parlare di amicizia. 349-238-6666, numero verde 800-240024. Un radioascoltatore dice: finalmente qualcuno parla del cosiddetto tromba amico, tromba amica. Sono termini che non piacciono perché snaturano proprio anche le persone, però sono termini di uso comune. Stefano da Cogne, un ascoltatore, lei crede nell'amicizia tra uomo e donna? Assolutamente no. Credo che 5-6 mila anni di storia, in 5-6 mila anni di storia l'uomo è programmato per la riproduzione e troppo poco tempo è passato per riuscire a pensare a un'evoluzione a livello antropologico dell'uomo. Cioè, l'uomo in ogni caso sta piacevolmente insieme a una ragazza e confonde la piacevolezza di stare insieme a questa con amicizia. In realtà è la voglia di accoppiarsi con lei, però lo trovo naturale. Cioè, quindi lei non ha amiche donne? Assolutamente, faccio finta di avere delle amiche donne che possono essere delle mogli di qualcuno, dove se questo qualcuno non ci fosse ci sto talmente bene che sicuramente non cioè, è lei che potrei avere. Avere una storia come Billy Crystal e Meg Ryan in Harry ti presento Sally, cioè lei dice un uomo è attratto da una donna, non può esistere un'amicizia tra uomo e donna. Assolutamente, scatta il rapporto sessuale, prima o poi tra uno dei due sta insieme per il rapporto sessuale, cioè poi l'altro può non avere interesse ed è per quello che viene confusa con amicizia, perché manca l'interesse di tutti e due. Magari, ma se l'interesse è di tutti e due non ha più senso di essere l'amicizia, sono una coppia di fatto. Secondo me è un po' un'illusione femminile, perché io vedo che ci stanno scrivendo moltissimi uomini, io ringrazio intanto Stefano da Cogne, e moltissime donne invece che parlano delle amicizie tra donna e non sentono, non si sentono in difficoltà in un'amicizia tra uomo e donna. E abbiamo tra le altre cose Antonio Alberto Pellai in onda, psicoterapeuta dell'età evolutiva e ricercatore all'Università di Milano, e oltretutto ha anche condotto con noi un programma con Nicoletta Carbone, Questa casa non è un albergo, e vogliamo chiederle invece ad Alberto Pellai che cosa succede quando due amici rompono l'amicizia su Facebook o su Twitter o su Instagram, perché alle volte si crea una frattura che è più profonda di quella della vita reale. Intanto buongiorno a tutti, è un fenomeno molto molto frequente, tra l'altro lavorando con i ragazzi lo vedo molto frequente in età evolutiva. su Facebook e in generale nell'online, noi abbiamo pochissimi freni inibitori, molto spesso diciamo molto velocemente online cose che invece faremo molta molta fatica a dire dal vivo, dal vero, e spesso le diciamo anche senza pensarci, cioè in modo non elaborato, di getto, di impulso. Quando un'amicizia si rompe online può essere ricostruita solo nella vita reale, cioè ci deve essere un lavoro duro poi nel reale, nell'incontro con l'altro, in cui uno in qualche modo spiega anche che spesso, esattamente come succede poi in questi casi, uno dice non ci avevo pensato bene, cioè ero lì che cliccavo su dei tasti e il mio cervello emotivo, cioè il cervello che in qualche modo si emoziona, si eccita, si attiva, andava più veloce del mio cervello cognitivo, che è il cervello che pensa e che è un cervello, quello cognitivo, che è molto attivo nella vita reale e molto poco attivo invece nella vita virtuale. Succede poi anche soprattutto su Facebook, io ho notato nelle persone della mia età, quando si parla di politica, allora lì si rompono delle amicizie, si inizia una discussione in cui ognuno vuole mettere i paletti, quindi non è solo una cosa adolescenziale purtroppo. Sì, direi che in generale dovremmo considerare che nell'online a noi mancano poi tutti quegli aspetti che fanno parte della comunicazione metaverbale e che non sono nel detto, ma sono nel non detto. Il non detto nella situazione reale può essere colto dall'altro. A me capita a volte con i pazienti che sono magari furibondi o che hanno rotto un'amicizia o un amore per una frase che hanno letto online, di provare a rileggere quella frase con un'inclinazione emotiva diversa, cioè con un altro tono rispetto a quello con cui loro se la sono letti, e quella frase cambia completamente di significato. Quindi direi bisogna fare molta attenzione, perché l'online è molto piatto, è monodimensionale, cioè vede la parola solo nel modo in cui è stata scritta, ma non vede tutto quello che c'è intorno, vede il cosa ma non vede il come. Lucia ci scrive: amicizia scevra ad ogni altra sfumatura tra donna e uomo è possibile solo dopo una relazione amorosa, finito il rapporto maschio-femmina diventa una relazione uomo-donna, insomma questo è il tema che sta appassionando di più i nostri radioascoltatori. Antonio Pascal: abbiamo sentito le testimonianze degli uomini, sono soprattutto gli uomini a non credere all'amicizia tra uomo-donna, mentre le donne ci credono. E poi abbiamo anche sentito il nuovo codice che dice tromba amica, tromba amico. Beh, dal punto di vista della biologia qualche differenza c'è, insomma i maschi non sono interessati ai sentimenti, cioè almeno non sono interessati a discutere troppo sui sentimenti, e quindi il dialogo, l'amicizia non sono priorità, insomma non capita, basta guardare i ragazzini giocare, abbiamo altri, il calcetto, no il calcetto no, le priorità sono risolvere i problemi, essere un po' più pratici, insomma, no? Quindi vediamo all'inizio l'altro universo, quello femminile, come un universo un po' incomprensibile, mentre invece le donne sono molto più abituate ad analizzare i sentimenti, a discutere delle relazioni, ad approfondire anche. Basta leggere il dialogo di Adam ed Eva di Mark Twain, dove lui si immagina com'era la vita dei nostri primi tuoi genitori, insomma. Adam è un ragazzino che si butta dalla cascata, vuole fare l'esplorazione del territorio, delle mappe mentali, mentre invece Eva continuamente parla, vuole ragionare i sentimenti, e questo crea distanza. A un certo punto perdono la proprietà, perdono il giardino dell'Eden, e Adamo decide che gli conviene innamorarsi di Eva, perché ora che ha perduto la proprietà ha bisogno di un'altra proprietà, di un surrogato, e quindi sceglie Eva. Eva glielo lascia credere e poi strategicamente gli fa trovare un figlio. Quando Eva si chiede perché amo Adamo, fa un lungo elenco, è bello, non è bello, sa cantare, non sa cantare, alla fine dice ma io lo amo perché è maschio ed è mio. E quindi il concetto di proprietà è un concetto fondamentale, molto difficile togliere all'amore questa base, la proprietà, con tutti i vantaggi e gli svantaggi che comporta. Questo secondo me è una base biologica molto seria, su cui si innesta poi la cultura. La cultura può fare da cuscinetto, certo, può appunto smussare gli angoli, l'ostilità, così, oppure al contrario aumentarle. È tutto un problema di rapporto tra biologia e cultura, il rapporto uomo-donna. Giusy da Firenze, ti interrompo perché c'è Giusy da Firenze invece che crede profondamente nell'amicizia tra uomo e donna. Giusy, quali sono le tue esperienze? Sì, buongiorno, esatto, ci credo profondamente perché l'ho vissuta e continuo a viverla, per cui mi dispiace per gli uomini, ma se non l'hanno provata come cavolo fanno a dire non ci credo? Non siamo mica animali che saltiamo addosso al culetto o alla patatina degli altri, ragazzi, siamo esseri umani con Giusy, un cuore. Siamo di mattina, ricordiamo che una fascia non zanzariana di Radio 24. Francesca Rigotti, abbiamo sentito, gli uomini non ci credono, le donne invece ci credono nell'amicizia uomo-donna, quindi e abbiamo sentito anche Antonio Pascale confermarci questa teoria. C'è una visione diametralmente opposta. Sì, la mia visione è diametralmente opposta e tutto sommato penso che sia simile a quella di Alberto Pellai, anche se non si è espresso esplicitamente su questo. Ora glielo chiediamo perché siamo in chiusura, quindi brevemente lei ci crede? Io certo che ci credo, e poi questa attribuire di nuovo alle donne il sentimento e agli uomini la ragione, Adamo, certo, alle mappe mentali e Eva chiacchiera con le amiche, no, perché non c'erano forse. Vabbè, chiacchierava da sola. Alberto Pellai crede nell'amicizia uomo-donna? Siamo in chiusura, quindi brevemente. Ci credo profondamente, credo che se ci sono uomini che sono educati alla relazione, all'emozione, sanno condividere poi un'esperienza relazionale così intensa come quella dell'amicizia, riconoscendo l'amicizia diversa dall'amore proprio perché non è connotata sessualmente, e si godono questo aspetto. Molti uomini, molti ragazzi hanno il loro amico del cuore e in quell'amicizia non c'è nessuna connotazione sessuale. La stessa competenza la possono portare anche nella relazione con una coetanea, una ragazza, senza complicazioni sessuali, proprio perché vanno cercando altro nell'amicizia. Gianfranco ci scrive: la mia esperienza mi dice che l'amicizia uomo-donna può esistere ed essere anche salda. Insomma, molti vostri sms, un tema che divide. Io ringrazio Silvi Boccaletti, Luca Cremonese e Massimiliano Lollis, la mia fantastica redazione, e in regia il fantastico Valerio Rocchetti. Vi do appuntamento a domani alle 8:15, linea al giornale Radio.